Benvenuti a Il Confronto. Allora, oggi ci occupiamo di un fenomeno, direi, curioso. L'esistenza di una suite di strumenti software, le cosiddette applicazioni universali. In pratica parliamo di semplici file HTML, leggerissimi, che non richiedono alcuna installazione e funzionano interamente sul computer di chi li usa. Il loro motore, diciamo, è un'intelligenza artificiale locale, gestita tramite Ollama, che permette di analizzare testi in modo incredibilmente potente. La domanda che ci poniamo, ecco, partendo da questo materiale, è semplice ma profonda. Perché questi strumenti, che offrono un controllo che potremmo definire sartoriale, privato e gratuito sull'analisi del testo, sembrano essere, beh, completamente ignorati proprio da chi, per professione, studia la lingua e i suoi meccanismi? Io, da parte mia, sostengo che questo disinteresse sia sintomo di un'inerzia quasi culturale nel mondo accademico, di una scarsa capacità di riconoscere il potenziale rivoluzionario di un approccio così, così agile. Io invece credo che la ragione sia quasi opposta e molto più pragmatica. La comunità scientifica non adotta questi strumenti non per pigrizia, ma perché si tratta di una scelta del tutto razionale, basata sui limiti strutturali che queste applicazioni hanno per una ricerca linguistica che voglia definirsi appunto rigorosa. D'accordo, ma permettimi di esporre la mia posizione. La genialità di questa suite sta, secondo me, nella sua architettura, che poggia su tre pilastri fondamentali. Primo, la privacy assoluta. I dati, magari dati sensibili o coperti da copyright, non lasciano mai e poi mai il computer dell'utente. Secondo, la portabilità estrema. Parliamo di file HTML, puoi inviarli via email, metterli su una chiavetta, funzionano ovunque. E terzo, e questo è il punto più importante, il controllo totale. L'uso di un'IA locale tramite Ollama significa che sei tu a decidere il modello, i parametri, senza filtri o censure imposte dall'esterno. Pensa ad applicazioni come il Cliché Detector, che scova le banalità in un testo, o l'Easy Text Processor, quel file plain language.html, che traduce il burocratese in un linguaggio comprensibile. Beh, questi sono esempi perfetti di sartoria digitale. Offrono un potenziamento degli spazi di elaborazione del testo, un'analisi fine e personalizzabile che è semplicemente irraggiungibile con gli strumenti cloud generalistici. La mia tesi, insomma, è che il mondo accademico, abituato a software complessi, costosi, istituzionali, stia commettendo un grosso errore di valutazione. Sta scambiando la semplicità per superficialità, ignorando un'opportunità unica. Capisco l'entusiasmo per l'eleganza tecnica e la riconosco, Però la mia prospettiva è radicalmente diversa. Se analizziamo questi strumenti con la lente del metodo scientifico, la loro debolezza diventa, direi, evidente. Mancano dei pilastri fondamentali. Il problema principale, quello che a mio avviso è insormontabile, è la riproducibilità. L'output di queste applicazioni, cioè il risultato di un'analisi, dipende interamente dal modello di intelligenza artificiale che ogni singolo utente ha installato sulla propria istanza di Ollama. Questo cosa significa? Significa che i risultati non sono standardizzati, non sono confrontabili tra diversi ricercatori e di conseguenza non sono replicabili. E la scienza senza replicabilità, beh, è solo aneddotica. E aggiungo un altro punto, la percezione. Quando in una suite di strumenti analitici trovi anche un joke writer o un sarcastic writer, per quanto possano essere divertenti, rischi di minare la credibilità dell'intero pacchetto. Un ricercatore serio potrebbe storcere il naso. Per questo sono convinta che non si tratti di inerzia, è pragmatismo puro. La comunità scientifica ha bisogno di metodologie validate, scalabili, i cui risultati possano essere verificati e confrontati. E questi eleganti file HTML, purtroppo, per quanto ingegnosi, restano confinati a un uso personale o creativo, non scientifico. È proprio qui che secondo me c'è l'errore di valutazione. Tu vedi il controllo locale come un limite alla standardizzazione, mentre io lo vedo come un valore inestimabile per la sperimentazione. La fase esplorativa della ricerca, quella in cui si formulano le ipotesi, ha bisogno di libertà, non di gabbie. Questi strumenti permettono di, giocare con i testi, di testare idee senza i vincoli di API a pagamento, senza i filtri ideologici che le grandi aziende impongono. Prendi il Text Transformer, con i suoi 20 prompt predefiniti. È un laboratorio di analisi testuale tascabile. Permette di creare uno spazio di comprensione personalizzato. Questa non è una debolezza, è la sua forza principale. È la differenza tra un abito di alta sartoria, tagliato sulle tue misure, e un prodotto industriale di massa. L'Accademia dovrebbe valorizzare questa possibilità, non scartarla a priori. Certo, capisco il punto sulla personalizzazione, ma non è proprio quella sartoria a renderli scientificamente inutilizzabili per produrre conoscenza condivisa. Facciamo un esempio concreto, no? Immaginiamo due ricercatrici in due università diverse, vogliono condurre un'analisi per attribuire un testo anonimo del Novecento. Usano entrambe il cliché detector sullo stesso testo. La prima, sulla sua macchina, usa il modello Llama 3-8B. La seconda, invece, usa Mistral 7B. Ottengono risultati leggermente diversi. La prima trova un'influenza stilistica, la seconda ne trova un'altra. Quale dei due risultati pubblichiamo su una rivista scientifica? Quale dei due è vero? La nostra ricerca diventa un aneddoto sulla configurazione del nostro laptop, non un'analisi oggettiva. La scienza non si basa su risultati unici e irripetibili, si basa sulla capacità di replicare un esperimento e ottenere lo stesso esito. Qui questa condizione fondamentale manca per progettazione. Tori di intuizioni. E il fatto che modelli diversi diano risultati diversi non è un bug, è una feature. Permette di osservare un testo da angolazioni multiple, di scoprire sfumature che un unico modello standardizzato potrebbe non cogliere mai. È un arricchimento, non un impoverimento. La validazione scientifica può arrivare dopo, usando strumenti più tradizionali per confermare le ipotesi generate da questa esplorazione libera. Negare l'utilità di questa fase significa voler costruire una casa partendo dal tetto. Va bene, ma anche ammettendo, per assurdo, che si possa risolvere il problema della riproducibilità, magari mettendosi tutti d'accordo su un unico modello locale, cosa già di per sé improbabile, rimane un ostacolo pratico enorme. E questo mi porta dritta al secondo punto, l'integrazione nei flussi di lavoro accademici, cioè come si inseriscono questi strumenti nel modo in cui un ricercatore lavora oggi. Non capisco l'obiezione. Sinceramente, sono estremamente semplici da usare. Apri un file, incolli un testo, premi un pulsante. Prendi il facilitatore digitale. È progettato per semplificare il linguaggio di una bolletta di una lettera burocratica. È l'incarnazione dei principi del plain language, una teoria linguistica applicata. È di una chiarezza e un'utilità disarmanti. Quale linguista non dovrebbe essere entusiasta di avere un laboratorio pratico dove testare le proprie teorie su testi reali, in modo istantaneo e privato? Mi sembra che l'ostacolo non sia tecnico, ma mentale. L'ostacolo è assolutamente tecnico e strutturale. Un ricercatore oggi non lavora quasi mai da solo. La ricerca è collaborativa, si basa su piattaforme integrate. Tu parli della semplicità di un click, ma sorvoli sulla configurazione preliminare. La documentazione stessa menziona la necessità di impostare la variabile d'ambiente o Llama Origins. Allora, per te e per me può sembrare una banalità, ma per un umanista, un linguista non avvezzo a smanettare con il terminale, questo è già un ostacolo. Ma il punto cruciale è un altro. Come integro un file HTML isolato in una pipeline di ricerca che magari usano, NVivo, R o Python per le elaborazioni statistiche? La risposta è no, non lo integro. Queste sono soluzioni monolitiche pensate per un utilizzo individuale e puntuale. Non sono progettate per potenziare spazi collettivi di elaborazione, come dici tu, ma per restare confinate sul desktop di una singola persona. La ricerca moderna è un ecosistema e questi strumenti al momento ne sono fuori. Ma qui non stiamo parlando di un flusso di lavoro ideale, stiamo parlando di accessibilità, di democratizzazione. Stai descrivendo una barriera che in realtà è un enorme vantaggio competitivo. Il fatto che non siano legati a ecosistemi costosi e proprietari è ciò che li rende così potenti. Guarda, qui si scartano queste soluzioni perché sono gratuite, leggere e non provengono da una grande casa produttrice di software. Questa è una forma di, chiamiamolo, snobismo tecnologico. C'è quasi un pregiudizio inconscio. Se uno strumento non ha alle spalle un'istituzione, un paper, un costo di licenza, allora viene percepito come un giocattolo. Si ignora che l'innovazione più dirompente oggi arriva spesso proprio da questi progetti leggeri, open source e decentralizzati. È un peccato. No, guarda, quello che tu chiami snobismo, io la chiamo una legittima e direi necessaria richiesta di affidabilità e continuità. Non è una questione di prezzo o di prestigio, ma di gestione del rischio. Uno strumento, per essere adottato sistematicamente in ambito accademico, deve garantire un mantenimento nel tempo, una documentazione esaustiva e idealmente un supporto. Un file HTML creato da un singolo sviluppatore, per quanto brillante, è intrinsecamente fragile. Chi ne garantisce il funzionamento tra 5 anni? Cosa succede se un futuro aggiornamento di Chrome o Firefox ne compromette la funzionalità? La ricerca, specialmente quella che si sviluppa su più anni, non può permettersi di basare le proprie fondamenta su strumenti così effimeri. La preferenza per soluzioni istituzionali non è conservatorismo fine a se stesso, è una scelta strategica per garantire la conservazione dei dati nel lungo periodo. Ma questa gestione del rischio non è a sua volta una forma di inerzia che frena il progresso? Ci si affida a sistemi noti e pachidermici per paura di sperimentare. Si preferisce la stabilità percepita di un software commerciale, che però domani potrebbe raddoppiare i prezzi, rispetto alla libertà totale di uno strumento open source, che se anche venisse abbandonato potrebbe essere ripreso da qualcun altro. La vera gestione del rischio non è affidarsi a un'azienda, ma avere il pieno controllo dei propri strumenti. Sono due filosofie diverse. Tu parli di controllo individuale, io di affidabilità collettiva. Un paper scientifico deve contenere una sezione metodi che permetta a chiunque, tra 10 anni, di rifare la stessa analisi. Se il metodo è «ho usato un file HTML scaricato da un sito con il modello X sul mio Ollama», quella ricerca è morta il giorno stesso in cui viene pubblicata. Non è una base solida. La mia posizione, quindi, rimane che questa suite di applicazioni rappresenta un'enorme occasione mancata. È la perfetta dimostrazione di come l'agilità, la privacy, il controllo offerti dalla tecnologia locale vengano sacrificati sull'altare di una standardizzazione accademica che, pur avendo le sue ragioni, spesso frena l'innovazione. Il potenziale di questi strumenti risiede proprio nella loro natura leggera e personalizzabile. Questo potenziale, ecco, attende solo di essere compreso. Io, dal canto mio, ribadisco che la fredda accoglienza del mondo accademico non è un sintomo di chiusura mentale, ma una valutazione pragmatica e del tutto razionale. Pur apprezzandone l'ingegnosità per scopi didattici o personali, questi strumenti oggi non superano la soglia dei requisiti minimi di riproducibilità, validazione e affidabilità. E questi non sono optional, sono i pilastri su cui si fonda la ricerca scientifica. L'eleganza della soluzione tecnica non può e non deve mai sostituire il rigore metodologico. È chiaro che il nostro confronto evidenzia una disconnessione profonda, quasi un divario culturale. Da un lato, il mondo dello sviluppo di soluzioni rapide, artigianali, focalizzato sulla libertà dell'utente. Dall'altro, le esigenze strutturate del mondo accademico, che privilegia la stabilità e la verificabilità collettiva. Esattamente. E il dibattito solleva una questione molto più ampia. Come può l'innovazione tecnologica che nasce dal basso, in modo così agile, dialogare efficacemente con le istituzioni, che richiedono rigore e standard condivisi? Il materiale che abbiamo analizzato è un caso di studio perfetto di questa tensione e offre certamente molti spunti per esplorare come, in futuro, si possa provare a costruire un ponte tra questi due mondi.